24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'attesa per il pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca sulla legalità del Fondo Salva Stati ISM. Anche l'ultimo ricorso d'urgenza presentato da un deputato della CSU bavarese è stato respinto. Oggi andiamo a raccontarvi l'attesa per un altro evento, le elezioni parlamentari in Olanda, e vi racconteremo nel dettaglio anche l'ultimo rapporto OCSE che accusa l'Italia, nel bel paese, pochi laureati. Infine vi portiamo nello spazio per raccontarvi un'altra avventura made in Europe. E allora siamo arrivati al D-Day dell'Europa, oggi con l'atteso pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca sulla legalità del Fondo Salva Stati ISM, la presentazione da parte del commissario europeo al mercato interno Michel Barnier del piano di vigilanza bancaria europea e anche il discorso sullo stato dell'Unione del presidente della Commissione europea Josep Barroso. Tre avvenimenti importanti, cui se ne aggiunge un quarto in calendario, anche le elezioni in Olanda. Sentiamo. METOP significa Meteorological Operational Satellite, cioè satellite meteorologico operativo. Satellite meteorologico è facilissimo da capire, operativo significa che deve garantire un servizio alla massima affidabilità, è un po' come il frigorifero di casa, insomma non si deve guastare mai, ci si deve quasi dimenticare di lui, deve svolgere la sua funzione senza mai fermarsi. Non è una missione scientifica in cui si va a studiare una cosa nuova, questo deve funzionare perché molti organismi meteorologici e istituti di ricerca contano sui dati di METOP per le previsioni del tempo. Quanti satelliti di questo genere ci sono attualmente in orbita intorno al nostro pianeta? Noi come Europa ne abbiamo due, che è il METOP A, che è stato lanciato nel 2006, e adesso c'è il suo fratello che è il METOP B. Gli Stati Uniti hanno la loro famiglia di satelliti meteorologici simili ai nostri, con i quali c'è anche un accordo di cooperazione per lo scambio dei dati. Sicuramente Cina, Russia e le potenze spaziali avranno i loro. Ecco. Cos'è un satellite meteorologico? Dunque, il satellite meteo guarda essenzialmente, guarda sia nel visibile, quindi fa delle fotografie, dei filmati, diciamo, in maniera semplice, quindi studia il movimento delle nuvole in questo senso. Guarda anche in campi dove l'occhio umano non vede, per esempio l'infrarosso, per esempio le microonde. E questo permette di rilevare i profili di umidità, profili di temperatura, e quindi tutto aiuta a capire come si evolverà il clima. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha salutato gli sforzi considerevoli compiuti dalla Grecia per ridurre il suo deficit di bilancio, ma ha ribadito che le valutazioni della troica dei tecnici di Europa, BCE e FMI saranno cruciali per decidere il proseguimento degli aiuti a favore di Atene. La Grecia ha pagato abbastanza per i suoi errori e l'Europa deve svolgere il suo ruolo storico sostenendo il Sud nel superare la crisi, ad affermarlo il presidente greco Karolos Papoulias. In Spagna il governo conservatore di Mariano Rajoy dichiara guerra alla speculazione per cercare di aumentare le entrate e ridurre il deficit. Il capital gain generato dalla vendita di azioni tenute per meno di un anno dagli investitori sarà tassato secondo le aliquote fiscali, che possono arrivare fino al 52% e non fino al 27% come la norma al momento. La ratifica del Fiscal Compact europeo verrà dibattuta all'Assemblea nazionale francese a ottobre. E quanto emerge dal calendario approvato dal governo di Parigi, il 2 di ottobre il premier Jean-Marc Ayrault farà una dichiarazione davanti ai deputati sulle nuove prospettive europee. Seguiranno il dibattito del Parlamento, che potrebbe durare anche 2 o 3 giorni, e l'eventuale ratifica. Siamo ai mercati, finale positivo per le borse europee in attesa che la Corte Costituzionale tedesca si esprima sulla liceità del Fondo Salva Stati ISM. Dopo una partenza zoppicante nel pomeriggio i listini hanno trovato il sostegno dalle indicazioni da parte del premier cinese Wen Jiabao sull'andamento del PIL della Repubblica Popolare, che quest'anno vanterà un rialzo almeno del 7,5%. Milano ha così chiuso in progresso dello 0,84%. Serve un'Unione Europea più combattiva che si imponga, se necessario, con la forza diplomatica che le compete, perché migliorino le condizioni di accesso ai mercati internazionali e diminuiscano le pratiche illecite e sleali di molti concorrenti. E quanto ha sottolineato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Uno sguardo all'istruzione. Questo è il titolo del rapporto OCSE sui livelli scolastici dei paesi che aderiscono all'organizzazione. L'Italia non esce, dobbiamo dire la verità, bene. Il numero di laureati resta basso, i docenti delle superiori sono anziani e sebbene la spesa annua complessiva per studente sia in linea con la media, passando dall'asilo all'università, i livelli cambiano e di parecchio. Sopra la media dall'asilo alle elementari, parecchio sotto la media dalla scuola secondaria in poi. A leggere il capitolo italiano del rapporto OCSE sulla scuola sembra discorrere un elenco di luoghi comuni. L'Italia ha i professori più anziani, i corsi di laurea con indirizzo ingegneria restano un feudo maschile, la percentuale di laureati è molto bassa e tanto per non dimenticare nulla, negli ultimi anni avere una laurea non ha aiutato a trovare un'occupazione. Secondo gli analisti OCSE, oltre la metà dei docenti delle superiori ha più di 50 anni, in Francia oltre la metà sono sotto i 50. Di per sé non sarebbe un problema, ma in un ambito delicato come quello scolastico il ricambio generazionale è, secondo i ricercatori, un passaggio necessario. Salendo di grado resta un classico che all'università le materie tecnico-scientifiche siano appannaggio degli uomini, mentre le donne prediligano materie umanistiche o socio-sanitarie. Ciò detto, le laureate sono di gran lunga più dei laureati, ma il numero di coloro che arrivano al termine degli studi resta molto basso. Solo il 15% della fascia 25-64 anni ha un diploma di laurea, contro una media dei paesi dell'organizzazione che supera il 30%. Una prima superficiale spiegazione può essere data dal fatto che negli ultimi 10 anni avere un titolo universitario non ha aiutato granché a entrare nel mercato del lavoro. In alcuni casi ha addirittura peggiorato la situazione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mai più operazioni sporche della CIA in Europa, ma non solo. È tempo che i governi, compreso quello italiano, facciano luce sulle coperture date negli anni scorsi, perché la lotta al terrorismo deve continuare ma senza violare i diritti umani. Questo è il messaggio del rapporto del Parlamento europeo approvato a stragrande maggioranza a Strasburgo. Dal corso di lingua allo scartamento dei binari, dal caricabatteria alle prese elettriche, tutto si fonda sugli standard. Migliorare il processo di standardizzazione per l'Europa ha un valore potenziale di 35 miliardi di euro ed è il primo passo per il rilancio del mercato unico. L'Europarlamento ha dato il via libera al regolamento che, dal prossimo anno, semplifica la fissazione degli standard tecnici europei nel settore dei servizi e delle telecomunicazioni. Strasburgo ha votato infine a larghissima maggioranza una stretta sulla sicurezza nel settore dei farmaci, bollini neri per i medicinali soggetti a monitoraggio addizionale, procedura d'urgenza automatica se un farmaco viene ritirato in uno Stato europeo, aumento dei casi in cui scattano i controlli e dovere di trasparenza per le società farmaceutiche obbligate a indicare se una medicina viene ritirata o non rinnovata per ragioni di sicurezza. Questi i punti fondamentali della normativa. Una pressione sulla società per influenzare i negoziati in corso con alcuni paesi dell'est al fine di ridurre il prezzo del gas russo. Così Gazprom, tramite il portavoce Sergei Kuprianov, ha definito la procedura di infrazione della Commissione europea contro il colosso russo. L'Europa è pronta a raddoppiare. Il satellite METOP 2 è pronto al lancio nella base di Baikonur. Affiancherà METOP 1, che dal 2006 sonda l'atmosfera in un'orbita polare cosiddetta bassa, a circa 800 km di altezza. L'orbita è polare perché prevede il passaggio sopra i poli e il tempo impiegato per ogni orbita è di circa 1 ora e 40 minuti. Questo significa che METOP A gira intorno alla Terra circa 14 volte al giorno. Enrico Corpaccioli è il Program System Manager del satellite europeo. Sentiamo. METOP significa Meteorological Operational Satellite, cioè satellite meteorologico operativo. Satellite meteorologico è facilissimo da capire, operativo significa che deve garantire un servizio alla massima affidabilità, è un po' come il frigorifero di casa, insomma, non si deve guastare mai, ci si deve quasi dimenticare di lui, deve svolgere la sua funzione senza mai fermarsi. Non è una missione scientifica in cui si va a studiare una cosa nuova. Questo deve funzionare perché molti organismi meteorologici e istituti di ricerca contano sui dati di METOP per le previsioni del tempo. Quanti satelliti di questo genere ci sono attualmente in orbita intorno al nostro pianeta? Noi come Europa ne abbiamo due, che è il METOP A, che è stato lanciato nel 2006, e adesso c'è il suo fratello che è il METOP B. Gli Stati Uniti hanno la loro famiglia di satelliti meteorologici simili ai nostri, con i quali c'è anche un accordo di cooperazione per lo scambio dei dati. Sicuramente Cina, Russia e le potenze spaziali avranno i loro. Ecco. Cos'è un satellite meteorologico? Dunque, il satellite meteo guarda essenzialmente, guarda sia nel visibile, quindi fa delle fotografie, dei filmati, diciamo, in maniera semplice, quindi studia il movimento delle nuvole in questo senso,